Addio compagni, addio, sorelle, spose e madri, la società dei ladri ci ha fatto relegare, sepolti in riva al mare. Siamo coatti e baldi, per l'isola partiamo e non ci vergogniamo, perché questo soffrir è sacro all'avvenir. Ma un dì ritorneremo più fieri ed implacati, finché rivendicati non siano i dritti ancor d'ogni lavoratore.